ed a organizzare l'evento è la rete San Precario, la rete che raccoglie i vari lavoratori atipici. Abbiamo al telefono noi Ulisse, che appunto della rete di San Precario. Buongiorno Ulisse. Buongiorno a tutti. Senti Ulisse, 12ª edizione della May Day, poi con il tema della precarietà che è diventato poi molto, come dire, diffuso, presente, pane quotidiano, diciamo. Il futuro della May Day quale sarà a questo punto? Dunque, già si è dimostrato con questa May Day e con la May Day dell'anno scorso, insomma. Noi abbiamo riflettuto parecchio rispetto all'evoluzione di questo primo maggio precario, insomma. Per anni è stato un'occasione di denuncia, di autorappresentazione, se vogliamo, della condizione della precarietà, di cui non parlava nessuno o molto pochi, insomma. Fino a 10 anni fa si diceva, la precarietà veniva chiamata flessibilità e si diceva che sarebbe stata, come dire, un passaggio momentaneo. Invece noi già all'epoca dicevamo che questa sarebbe stata la condizione universale persistente del mercato del lavoro futuro, insomma. Adesso le condizioni sono cambiate, nel senso che la May Day non è più soltanto, diciamo così, la summa dei racconti delle sfortune o delle disgrazie dei vari precari, come è successo negli anni passati, ma diventa una dimostrazione, un'espressione del protagonismo precario, e quindi in tal senso si sono connotati i carri che hanno caratterizzato ieri lo sviluppo del corteo, insomma, concentrati tutti quanti sulle questioni, diciamo così, più urgenti relative alla riforma del mercato del lavoro e contemporaneamente relative alle vertenze che per esempio la rete San Precario sta conducendo nel corso ha condotto nel corso degli ultimi mesi, insomma. Sì. Basti pensare ai carri che raccoglievano le vertenze dei lavoratori delle cooperative, degli operatori sociali, dei lavoratori Esselunga, dei rilevatori del comune, le vertenze relative alle richieste di allargare il pacchetto di agevolazioni sul biglietti ATM, insomma tutti aspetti che riguardano propositivi di intervento e di proposta di lavoro nella precarietà, insomma, che devono caratterizzare e caratterizzeranno l'azione non solo della rete San Precario, ma anche di tutti quanti decideranno di coordinarsi insieme a noi per insistere sul protagonismo delle moltitudini precarie, non più soltanto su una forma di, diciamo così, rappresentazione di sé e di denuncia, insomma. È finito il momento del racconto, perdonami il termine, della sfiga, insomma, ecco. Senti Ulisse, le manifestazioni precarie non si fermano alla May Day, a breve una grossa iniziativa, non qui in Italia, ma a cui parteciperà anche la rete di San Precario, vero? Certo, era un altro, diciamo così, degli assi portanti della May Day di quest'anno, quello di rappresentare una sorta di trampolino di lancio per le mobilitazioni che hanno coinvolto sia il 1º maggio che nei prossimi giorni moltissimi stati, non solo europei ma anche del mondo, insomma. Già ieri May Day manifestazioni che si sono rifatte al titolo Occupy si sono svolte in tutta Europa e in tutto il mondo, a partire da New York per arrivare a Lisbona, per non parlare della Germania. È evidente che si sta formando una sorta, seppur embrionale, di, come dire, rete transnazionale di intervento e di lotta contro la precarietà, insomma. È evidente che non si fermerà al 1º maggio, ma che avrà nei prossimi giorni la sua massima espressione, insomma. L'appuntamento a Francoforte. l'appuntamento a Francoforte, senza dimenticare le mobilitazioni per esempio in Spagna del 12 e del 15 maggio fino ai alla due giorni di assedio alla BCE del 17-19 di maggio appunto a Francoforte, sì. Bene, grazie Ulisse, buona giornata a Rete San Precario. Ok, ciao, grazie. Ciao, buona giornata a te e a tutti i precari.